Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Qui sarà capitato anche a voi, aggiungo io, di provare durante la notte, mentre state dormendo, improvvisamente qualche cosa si muove, anzi pensate che intorno a voi il mondo inizi a girare, avvertite quello che possiamo definire un capogiro, una vertigine, abbiamo la sensazione che il letto si muova, che cosa ci sta succedendo? Sarà capitato anche a voi? Allora, se è capitato anche a voi, oggi chiediamo al nostro esperto che è venuto a trovarci stamattina in studio la spiegazione. Che cos'è e quali termini dobbiamo utilizzare per raccontare questa strana cosa? In studio con me il professor Roberto Teggi, docente di vestibologia all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ringrazio. Sarà capitato anche a voi? Ho chiesto intanto... Le è mai capitato? No, ecco, io non ho mai avuto una vertigine in vita mia. Però si occupa di vertigine, questo è un po' la specializzazione del vestibologo. Certo. Direi un medico che è a metà tra un neurologo e un otorino? È un medico a metà tra un neurologo e un otorino e deve avere anche delle cognizioni di fisiatria, riabilitazione e magari qualche nota di psicologia. Mamma mia, c'è da farsi girare la testa. A proposito di giramento di testa, ma questa strana sensazione, io l'ho descritta un po' con parole mie, ma mi rendo conto che è difficile da descrivere. Questa sgradevole sensazione che possiamo sperimentare all'improvviso di notte, siamo liberi, tranquilli, dormiamo, ci giriamo, bam! È stato detto, la vertigine in realtà non ha una validazione sociale, linguistica, per cui è difficile descriverla nel momento in cui la provi, soprattutto la prima volta. Certo, una vertigine con una componente posizionale che capita a letto, anche con sintomatologie più violente di quella descritta. Cosa le raccontano ad esempio? Per esempio io a un certo punto mi sono girato su un fianco, guardavo il comodino e vedevo il comodino che si ribaltava, si muoveva. Ovviamente è abbastanza pauroso. È abbastanza pauroso, però normalmente non è mai una cosa pericolosa. È legato al distacco di sassolini che tutti abbiamo nell'orecchio, chiamati otoconi, e dal loro ingresso in un canale semicircolare. Patologia, condizione trattabile in modo estremamente semplice facendo delle manovre di riposizionamento. Quindi spesso vediamo il paziente e in 10 minuti riusciamo a risolvere il problema. Professor Teggi, a volte per fortuna questa sensazione dura pochi istanti e tutto torna normale. Sono degli avvertimenti, cioè qualcosa ci sta dicendo che quei benedetti sassolini stanno per prendere una via diversa? Se è legato all'assunzione di una posizione particolare a letto, cioè molto meccanica, o legato magari alla flesso estensione della testa, sì, può essere il segnale che si stanno spostando. Perché questi sassolini si spostano? Tutte queste S. Bella domanda. Quando dite bella domanda vuol dire che non c'è ancora una risposta. Che non c'è una risposta, ma che ce ne sono tante di possibilità. Quello di cui siamo certi è che abbiano relazione con traumi cranici anche estremamente banali. Tipo mi sono alzato, ho picchiato una testatina contro uno spigolo della cucina. Esiste sicuramente una relazione con l'emicrania. La grande moda di questo periodo, di cui si sta studiando, sono gli stati carenziali di vitamina D. E la vitamina D va alla grande. Sì, è molto gettonata, però... C'entra anche con le vertigini. Come la chiamiamo questa vertigine? Questa la chiamiamo vertigine. Ecco, e potrebbe quindi tradire anche una carenza di vitamina D? Potrebbe essere provocato il distacco di questi otoconi da stati carenziali di vitamina D. E ovviamente riducendoli, facendo implementazione di vitamina D, avere la possibilità di ridurre le possibilità di averne successivi. Professor Teggi, a volte invece questa strana sensazione che noi descriviamo con la testa che gira o la sensazione di perdere un po' l'equilibrio, di camminare sulle uova, di avere la testa ovattata, compare durante la giornata, no? All'improvviso, magari quando ci alziamo dalla sedia o ci abbassiamo per raccogliere qualcosa, cambiamo rapidamente direzione o posizione, di nuovo il mondo intorno a noi si mette a girare, o al contrario abbiamo la sensazione che a girare siamo noi, un po' come trottole, come se fossimo in una giostra. Però scendere non è possibile, dobbiamo aspettare che passi, tanto che no, se abbiamo un appoggio vicino, no, lo afferriamo. Che cosa ci sta succedendo e che cosa dobbiamo fare? Bisogna molto probabilmente riconoscere qual è stata la causa che ha scatenato queste cose. Quello che lei ha raccontato può essere legato a tante condizioni. Per esempio, mi chino a raccogliere qualcosa, mi alzo, ho vertigine per un secondo, penso al vecchio problema degli otto coni, dei sassolini che si spostano. Quelli della notte. Mi ritrovo per esempio a dover fare movimenti rapidi della testa, penso che ci sia una disfunzione vestibolare che non è ancora ben compensata, in qualche modo guarita. Mi ritrovo in posti affollati in cui ho una pletora di immagini che si muovono e penso che molto probabilmente la componente emotiva o l'ipersensibilità alle immagini in movimento possa esserne la causa. Quindi, come vede, in realtà abbiamo tante scelte e non è così semplice. Quindi decidere. La componente emotiva, prof, c'è. Dopo una vertigine, la maggior parte delle persone sviluppa una certa quantità di ansia. Chi sviluppa un'ansia eccessiva spesso va incontro a una condizione di instabilità cronica nella quale concorrono la disfunzione vestibolare e la paura, l'ansia che ha sviluppato. Professore, oltre alla difficoltà a descriverlo al medico, perché immagino che sia complicato raccontare esattamente al curante che cosa ci è capitato in quel momento lì, è anche difficile individuare il professionista a cui affidarsi. Naturalmente il primo passo, noi lo diciamo sempre, il medico di famiglia, la sentinella della nostra salute, ma poi di chi si occupa di questi problemi? Il vestibologo, ma non c'è una specializzazione in vestibologia, dove lo trovo? Chi è? Il vestibologo in effetti non ha una formazione accademica universitaria particolare, non esiste una specializzazione in vestibologia. È genericamente una persona che ha sviluppato una certa passione nei confronti di questo sintomo e che quindi pian pianino ha colmato lacune imparando a essere neurologo, otorino otologo, magari anche con note di riabilitazione fisiatrica o di psicologia. Non è un caso, in Italia il vestibologo si chiama in realtà otoneurologo e siamo quasi tutti otorino. In Germania e in Inghilterra si chiamano neurotologist. Quindi il contrario. Esatto, partono sono dei neurologi che diventano otorini, noi invece gli otorini abbiamo gli otorini che diventano neurologi. Alla fine poi meglio avere le due specialità per chi fa questo mestiere. Ecco, e questo è un altro, è un altro dato. L'otoneurologo, il vestibologo, insomma l'otorino, il neurologo che ne capisce di orecchio, ecco, poi alla fine è questo. Quali esami ci farà per arrivare a fare una diagnosi e quindi a liberarci dal problema? Sempre meno. Quando io ho iniziato, la registrazione dei movimenti oculari, che sono il segno clinico di una disfunzione vestibolare, veniva effettuata con elettrodi posti attorno agli occhi, stimolazioni con acqua fredda e calda, che immancabilmente provocavano 8-10 minuti di vertigine intensa al paziente, oppure su sedie che ruotavano da quindi una parte. Li torturavate un po'. Sì, era una forma di tortura, in effetti. Ecco. Oggi siamo nell'epoca della cosiddetta bedside, utilizziamo maschere con telecamere, registriamo i movimenti oculari, normalmente non provochiamo nessun disagio al paziente, siamo in grado di avere diagnosi migliori. Siccome la storia clinica è parte integrante della diagnosi, è molto importante che l'operatore raccolga in prima persona la storia clinica e la ridefinisca. E come soluzioni, professore? In medicina esiste diagnosi, prognosi e terapia. In alcuni casi VPPB, Cupolo Litiasi o Sassolini, una manovra e ci una siamo. Manovra e andiamo a casa tranquilli. In altri casi, tipo una perdita di funzionalità vestibolare da causa virale, neurite vestibolare, beh, pian pianino, farmaci, cortisonici, eccetera, nel giro di qualche settimana al massimo siamo in forma fantastica. Nel caso di forme episodiche, emicrania vestibolare e malattia di Meniere, ovviamente bisogna individuare la terapia preventiva che sia in grado ragionevolmente di ridurre il numero di crisi. Non, la richiesta non è quella, prendo questo farmaco e non ne ho più. Sparisce tutto, no. Però un conto è una crisi di vertigine una volta al mese, un conto è una crisi di vertigine una volta ogni 3-4 anni. Ha un impatto completamente diverso sulla vita di quella persona. Grazie professor Teggi per essere stato con noi. Voglio anche dirvi che possiamo rimanere in contatto, una sorta di dillo all'amico, vi piace? 349-238-6666, questo è il numero per mandare un WhatsApp. Potete lamentarvi, potete dare dei suggerimenti, potete fare una domanda, una richiesta d'aiuto, raccontare una storia, insomma avete qualcosa da dire alla vostra Nico quotidiana. Allora dillo all'amico, 349-238-6666, vi aspettiamo. Buongiorno, mi chiamo Stefano e professor Morelli, che ha ragionissima. Concedersi distrazioni e pensare anche ad una situazione di altri tempi aiuta la guarigione, aiuta la guarigione in maniera incredibile. E prima di salutarci, noi ci siamo iscritti ad un mini corso molto importante, un mini corso che tutti noi abbiamo nel cuore, è un po' un desiderio di tutti noi essere felici, e questa settimana Raffaele Morelli ci dà delle indicazioni. Ciao Raffaele, grazie. Buongiorno a tutti. Ieri allora ci siamo distratti, portiamo la mente altrove. Oggi? Facciamo una cosa importante. Cerchiamo la tristezza. Suona strano. Suona strano, Vedi? Nella nostra epoca la tristezza è uscita di scena. E conosciamo. Non vogliamo neanche che i nostri figli siano tristi. Appena li vediamo tristi e annoiati, ci attiviamo perché siamo a disagio, soffriamo per loro. Se noi sapessimo che la noia è un farmaco per il cervello, soprattutto nei bambini. Mamma mi annoio, mamma mi annoio. Stai lì, annoiati. L'annoiarsi vuol dire spopolare la mente. La tristezza vuol dire spopolare la mente dalle certezze. Ma è proprio la vita giusta che sto facendo? Ci sono errori? Ma la tristezza che conta è una tristezza senza la causa. Se tu vuoi conoscere la felicità, cerca la tristezza ma elimina la causa. Cioè, io sono triste perché lui mi ha lasciato, sono triste perché ho sbagliato a sposare quella persona, sono triste perché il mio lavoro non mi piace. No, io voglio sentire la tristezza liberata dal motivo. Questa è un'azione fondamentale, perché la tristezza è un'energia per il cervello, antica, antichissima, no? Nella tristezza noi attiviamo delle aree che si staccano tutto il resto, le aree diventano silenziose. E nella tristezza ti accorgi di te, mai come nella tristezza ti accorgi di te. Io sono triste, gli altri ridono, ma io sono triste. E in quel momento incominci a aver cura di te, incominci a dirti: ma di che cosa ho bisogno che non faccio? No? Cos'è che non sto facendo? Non darti la risposta, ma lascia che la tristezza prepari la prossima tappa. Allora, i grandi studiosi del mondo antico dicevano che c'è la gioia nella tristezza e la tristezza nella gioia. Molte volte dopo un attacco di felicità, di riso, ci viene sotto fondo una specie è di tristezza, vero. No? Ecco, allora a volte la tristezza invece viene per dire: ma spazza via tutto l'inutile, no? Ma manda via le cose inutili. Vedi, nella maturità si impara a fare una cosa importante, a eliminare le persone con cui siamo andati d'accordo, che ci facevamo andare bene, che in realtà non ci andavano bene per niente. Facciamo un po' di potatura. Bravissima, bravissima. E stiamo nella tristezza per essere felici. Esattamente. A domani, con grande felicità, torna il nostro Raffaele Morelli. Intanto noi ci sentiamo a mezzogiorno. Buona giornata.